un po' rispondersi nel MP, cioè è molto diffuso, lo uso sicuramente su qualunque cosa. Quello che non ho ben capito, per esempio, Leonardo, è come funziona esattamente il server, tipo nella mia workstation c'è il server NASOS che poi lui chiama tutti gli SNMP che hanno loro una lista di cose e gliela danno e lui al volo se la costruisce, o devo avere qualcuno che sta un server NASOS sempre acceso, un always on, che man mano raccoglie i dati? La seconda che hai detto, tu hai un sistema NASOS sempre acceso che con una certa scadenza di tempi interroga i vari apparati. Mi fa anche statistiche di quello che ho avuto, cioè come è andata la temperatura media, esempio. Esatto, allora, nella slide precedente, due slide precedenti, beh, vediamo se riesco, senza distruggere tutto il lavoro della serata, a tornare indietro. Avevo messo anche un nome di un pacchetto, perché lo trovo molto... Ecco, MRTG, che fondamentalmente è lo strumento che ti permette di fare le statistiche e i grafici. Quindi quel NASOS più l'MRTG ti permette di verificare in tempo reale e acquisire uno storico. Per cui tu hai il trend delle temperature, trend del funzionamento, l'efficienza degli apparati, dopo li puoi costruire alla fine perché è molto flessibile. Una cosa dell'SNMP per curiosità, perché non sono andato a leggermi quello quotidiano, quindi sono proprio ignorante in questa cosa. Lui ti tira fuori dei valori, ti fa un minimo storico di suo nativamente il protocollo, oppure ti dà solo un dato real time? No, ti dà, da quello che mi ricordo, ti dà il dato real time. L'SNMP ti spara la condizione in quello. Il grande indice sì. Però c'è lo storico. C'è lo storico nell'SNMP? No, il NASOS fa lo storico. Tu acquisisci, tu in un certo tempo acquisisci il dato dell'SNMP dell'apparato, esatto. Dopo 5 minuti riacquisisci il dato, NASOS ti stora il primo dato acquisito e metti in fila il secondo. Via così ti cominci a costruire lo storico. Sì, quindi alla fine un demone NASOS in ascolto che raccoglie i dati e fa tutte le porcatine grafiche, esatto. E bellezze. Tu pensa a questo povero server, se tu hai 30, 40, 50 router più la ventina di server, quello che vuoi, cosa non voleva dare un servizio, ha lasciato perdere. Tu hai uno switch che comincia ad accendersi come un albero di Natale. Bello, corretto. Immagini che una cosa. Via. Ah no, va bene, lo dico a voce giusto per non annoiare. Zeno SS. Cos'è che mi è piaciuta di questa soluzione rispetto a NASOS? Che ha tutte le potenzialità di NASOS, quindi ti legge l'SNMP, prende lo storico, ti fa cazzabubole a medicoli, ha lo stesso tipo di supporto, quindi c'è la versione free e per quelli che vogliono avere del supporto c'è la consulenza a pagamento, perché bisogna dire anche questo ha un valore per chi lavora in questo settore. Funziona in ambiente web, la configurazione è molto più semplice e intuitiva anche su grandi numeri, soprattutto su grandi numeri. Perché un conto è cominciare a scrivere righe di codice su NASOS a manina, inserisci questo server che devi recuperare questa porta, un conto è dire con questo strumento fammi la scansione della rete e trovami tutti gli apparati SNMP. Cisco router 1721. Oh, ma questo lo conosco, dice Zeno SS. Ti presento già la maschera configurata e impostata. No, ma questo è un server Linux Debian di posta? Bene, recupero tutti i processi attivi e comincio a farti da monitoraggio e da verifica. E tu scegli cosa vedere o meno. Esatto. E questo è una gran bella cosa. Questo è molto bello anche perché per i ponti radio di determinate marche sono già integrati e quindi in tempo reale si può acquisire stato del link, qualità del segnale, se ho un sistema punto multipunto, quanti apparati sono collegati alla diffusione multipunto in tempo reale, quindi quanti utenti sono collegati per capirci, e tutta una serie di informazioni che sono particolarmente utili. Ah sì, dopo puoi mettere le coordinate geografiche e vedere su Google la mappa, se dovete fare i fili con i clienti è eccezionale. Domanda forse che non è compatibile. Posso decidere, vedendo magari che c'è qualche problema, usando questo Zenos per fare delle modifiche direttamente al, tu puoi all'apparato, tu puoi impostare l'accesso all'apparato cliccando sopra il link. Tu hai l'accesso in SSH, web o quello che vuoi all'apparato, dipende dal tipo di problema che hai. Se è rosso e non è più raggiungibile, va bene, chiaramente. Però sì, puoi fare questo tipo. Quindi dai, più banda, meno banda, io parlo per. Ecco, lo visto utilizzare a il più banda meno per banda. Ragazzi che hanno un cellulare. Mi fai una domanda difficile, perché il più banda meno banda lo modifichi, almeno che io sappia, sull'apparato. Questo significherebbe che lo strumento, ZenOSS nel nostro caso, dovrebbe comunicare i nuovi parametri, e io sinceramente non mi ricordo se questo. So che puoi chiedere l'accesso, ma come se fosse una pagina web esterna, un servizio esterno, un link proprio subito. Però sarebbe bellino, perché SNMP non posso modificare i parametri dell'apparato, posso solo leggerli. Con l'SNMP sì, ma se io posso accedere già con la via web o anche vabbè, con l'Ultra Net, esatto, se io posso solo leggere l'SNMP interno e basta. Però questo può andare. È una soluzione, secondo me, che va bene se non abbiamo voglia di perdere troppo tempo e se dobbiamo fare delle modifiche spesso alla rete, nuovi apparati, cambi e robe. Io ho messo anche questo perché? Perché è a pagamento, quindi non linciatemi adesso, per favore. Però è un sistema per il monitoraggio passivo e concettualmente è il migliore che io ho provato fino adesso. Perché? Perché gli altri o il pacchetto non funzionava, o aveva problemi, o io ve lo metto qui per chi lavora, magari al nome può dare una controllata a vedere se fa il caso suo. Esiste. Questi sono i tipi di report che butta fuori, quindi consumo di banda, stato dei ping, consumo delle singole interfacce in un router o in un firewall. Quindi se io ho il mio routerino con 16 interfacce mi dice per ogni porta cosa sta succedendo, analisi dei pacchetti e di tutto quello che volete. Per la sicurezza è abbastanza utile. Mi permetti 5 secondi di pubblicità progresso? Volentieri, anzi, grazie perché sto prendendo la voce. Ecco, noi abbiamo visto che presso sistemi di monitoraggio attivo. Il NetFlow Analyzer era passivo. Perfetto, ok, passivo. Anche qualcuno mi se fa l'argomento monitoraggio è interessante, tra qualche settimana facciamo una serata apposta su un sistema di monitoraggio passivo dei server. Si chiama Munin e se la cosa vi interessa entra, è una delle prossime serate che facciamo. 20 maggio. Chiuso per me. No. Eccellente, perché il passivo, monitoraggio passivo, ha il vantaggio di non intasare la rete, avere comunque una descrizione dello stato dei sistemi, avere il polso della situazione senza trasformare gli switch in alberi di Natale che continuano a accendersi e fare un casino. Più che altro c'è anche il rischio che se hai già la rete intasata non ti arrivano i segnali SNMP, se lo switch è lì sì, che sta diciamo che peggiori crepando. Una situazione già critica. Infatti. Sì, per lui lì che... Io a fianco del discorso del monitoraggio ne ho messo un altro che è quello della sicurezza. Perché? Perché il monitoraggio va bene, ma è anche bene evitare che succedano disastri. E quindi la sicurezza ormai è... Il disegno sulla destra descrive quali sono i livelli di sicurezza che vengono suggeriti. Il livello fisico della sicurezza, sicurezza sull'archiviazione dei dati, del perimetro, identità e accesso, è più un promemoria di tutto quello che dovremmo sapere e ricordare. Sicurezza, io qui ho preso tre distribuzioni Linux che fanno il loro sporco lavoro bene, stabili, funzionano egregiamente. Ce ne sono molte altre però, quindi anzi se qualcuno ha esperienza suggerisce meglio, perché veramente è un mondo... Aspetta, stai parlando dei pacchetti o distribuzioni? Sono, ecco, tu fai una puntualizzazione precisa. Queste qui li trovi sia come distribuzioni, CD, che fanno solo quel loro sporco lavoro, sia in Debian, se mi ricordo bene, puoi trasformare una Debian installando i pacchetti appositi. Quindi c'è la dualità di questa cosa. Sinceramente preferisco le distribuzioni perché la butto su, so che è stata testata e so che tutto funziona. Ci sono i live CD, mi pare, no? Ci sono i live CD, spero di sfruttarli al meglio all'installazione, perché se devo archiviare dati o scrivere storici. Sì, ma la mia paura è che se faccio installazione, cioè ti faccio un esempio, sì, faccio l'installazione, la cosa è già fatta. Ok, bello, fantastico, mi si incarta per un qualsiasi motivo, a parte che quella distribuzione sarà basata su qualche altra distribuzione, per forza, premettendo, è 99 su 100 che non ho Debian molto spesso. Sì, sì, sì, te lo confermo. Sì, ma è tanto quello. Per coloro che usano Fedora qui dentro, potrebbe anche essere una Fedora, ma non lo è. Quello che ti vado a chiedere io invece, per esempio, io mi è capitato di usare un'altra di queste live, che è proprio una live, non mi sta venendo in mente il nome in questo momento, che aveva di caruccio di integrare già da Swarm e Syslogger e aveva un suo sistema di Captive Portal. Bello questo. Un sistema di Captive Portal, cioè quando... che non è... il problema è che invece di usare cose tranquille e serene facciamo una cosa incasinatissima che si capiva solo lui. E aveva la pessima cosa di non dover avere necessariamente il disco dentro, cioè non potevi installare sul disco e lasciargli i CD dentro. Cosa... cioè inutile? Esatto, abbastanza tendenzialmente. In quel caso, avendola messa su, in quel momento mi salvò notevolmente il fotoschiena, di conseguenza non pensai inutile, pensai che bello. Sì, chiaro. In un secondo momento, magari. In un secondo momento la cosa mi infastidina un poco. Di conseguenza, per questo ti chiedevo cosa tu vuoi intendere con... Una volta che l'ho installata, questa non l'aggiorno, aspetto che esca una versione nuova, e raso l'installazione se la devo aggiornare, non l'aggiorno più, fermi tutti, la mia famiglia a tempo indeterminato, cioè qual è la mia policy da qui a un mese, tra virgolette, da una mia installazione? Allora, fai una domanda difficile e ti spiego. Buona serata. Lascio così. Non volevo interrompere tutti, scusate. È la parte più bella adesso. Sì, ma sono d'accordo. Va bene, dai, alla prossima. La registrazione. Sì. Ma tanto dopo so che verrà tagliata parte della registrazione dove facciamo i nomi, le marche, i prezzi, parliamo male di qualcuno. Siamo i bollini. No, a parte gli scherzi. Allora, sicurezza è pensata in questi termini, almeno io l'ho intesa in questi termini. Intanto non può essere un live CD montato su un PC a caso, deve essere un sistema stabile, seguito costantemente e quindi aggiornato costantemente. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, vale lo stesso discorso che si faceva con il kernel Linux. Quando faccio l'aggiornamento del kernel Linux... No, dimmi pure, perché mi fa paura questa permessa. Quando aggiorno il kernel Linux, preferibilmente solo se il cambiamento porta un numero di benefici maggiore rispetto ai rischi che corro facendo l'aggiornamento stesso. Cosa significa? Se io prendiamo i pickup, ho la mia distribuzione 1.0, esce la 2.0, quali sono le migliorie che porto? Quali sono i bug che vado a coprire? Le funzionalità in più? Mi convengono? Funziona meglio? Funziona peggio? Queste sono valutazioni che deve fare il sistemista nel suo ambiente, sapendo quali sono i suoi utenti e quali sono le sue necessità. Non sono risposte che posso dirti sì, fai l'aggiornamento ogni volta che capita, oppure no, non aggiornarlo mai perché va sempre bene questo. È una cosa calata molto nella realtà. Ti faccio un esempio stupido. Se tu sei in un'azienda che ha 50 dipendenti con i PC e hai un sistema di sicurezza di quel tipo, tu sai che i tuoi dipendenti sono analfabeti informatici e quindi usano sì e no internet, forse, se va bene, se si ricordano. Sai che nessuno ha pennette USB, sai che i computer sono 14 e che quindi non possono girare applicativi strani o fare peer-to-peer. Sai che tu hai fatto tutta la policy di sicurezza possibili. Sai che è un ambiente con bassi pericoli, bassi rischi e quindi non ci sono problemi. Puoi anche valutare che gli aggiornamenti non sono poi così impellenti, visto che il sistema magari ti funziona bene e non ti dà problemi. Se tu sei in un ambiente mission critical, dove gli utenti sono pazzi furibondi che lavorano con l'informatica dalla mattina alla sera e ti fanno di tutto di più. Sei in università. Posso chiederti di spostarti dalla porta perché sei risulti in ombra così. Speravo, lo facevo apposta per nascondermi. Va bene, così chiudo. L'uomo del tempo cosa dice? Quarto d'ora. Speravi, eh? Infatti.